PGR. Ciao. Senti, allora, voi come Movimento Femminista Proletario Rivoluzionario avete lanciato, e non è la prima volta fra l'altro, no, lo sciopero totale delle donne per l'8 marzo. Sì, diciamo che è una, appunto, come hai detto bene tu, non è la prima volta, perché lo intendiamo come una campagna che già nasce da alcuni anni, almeno da alcuni anni fa. E che quindi, diciamo, abbiamo portato avanti facendo anche delle esperienze pilota in alcune città dove siamo presenti, però quest'anno, anche, diciamo, per la fase, insomma, che stiamo vivendo, e quindi per gli attacchi, diciamo, che riceviamo purtroppo come donne in ogni ambito della nostra vita, l'abbiamo, diciamo, rilanciato con più forza, e in questo momento abbiamo fatto, lì dove siamo presenti, ma anche attraverso la rete, una proposta, ecco, a tutte quelle realtà che volessero, diciamo, accogliere questo appello, a costruirlo e per quel giorno a fare, diciamo, delle esperienze nei posti di lavoro, nelle scuole. Quindi uno sciopero delle donne. Uno sciopero delle donne inteso non solo come uno sciopero sindacale, diciamo così, economico, ma uno sciopero che possa toccare, diciamo, tutti quelli che sono gli aspetti della nostra vita, quindi non solo dal lavoro retribuito e produttivo, ma anche al lavoro riproduttivo. Sì, i vari aspetti, perché noi riceviamo attacchi in ogni ambito, cioè l'attacco che purtroppo riceviamo non è solo lavorativo, è un attacco anche ideologico, è un attacco che tocca tutti i nostri aspetti, quindi non è, in questo periodo ancora peggio, cioè e lo si è visto, cioè il fatto, diciamo, che le donne cominciano a percepire comunque questa cosa, lo si è visto per esempio il 13 febbraio con la grandissima mobilitazione che c'è stata e le tante donne che sono scese, al di là anche degli appelli, diciamo, di quella manifestazione, proprio perché si comincia a percepire questo fatto proprio di essere attaccate, diciamo, noi abbiamo scritto più volte a 360 gradi. Senti, tu sei scesa in piazza a Palermo, immagino, noi abbiamo fatto martedì scorso una trasmissione, abbiamo sentito varie città, ma poi non siamo riusciti ad arrivare a Palermo. Com'è andata? A Palermo, allora, anche a Palermo c'è stata una partecipazione molto numerosa, non ce l'aspettavamo neanche, eravamo più di, sui giornali hanno scritto 20.000, in effetti eravamo tantissime, cioè proprio, diciamo che i numeri che sono stati scritti sono, in realtà erano questi. L'aspetto positivo è stato appunto la grossa partecipazione delle donne, come dicevo poco fa, al di là anche dello stesso contenuto dell'appello, diciamo, di chi l'ha organizzata questa cosa, perché molte donne, per esempio, con le quali noi abbiamo parlato, non lo conoscevano neanche il contenuto dell'appello, ma dicevano con molta spontaneità e semplicità che era il minimo che si poteva fare, era scendere in piazza. Perché proprio oggi, con quello che stiamo vivendo, con quello che rappresenta Berlusconi e anche il suo governo dal punto di vista proprio delle donne, e con tutto quello, insomma, che sta succedendo, ecco, il minimo era in piazza a dire no, a protestare, a volere appunto portare un segno, diciamo, di protesta e di ribellione. Un altro elemento positivo è stata la partecipazione delle giovani, c'erano tantissime giovani studentesse, non solo universitarie ma anche studentesse medie, quindi anche più piccoline, e questo, diciamo, è un elemento molto positivo. Noi abbiamo portato appunto l'appello, diciamo, proposta dello sciopero delle donne, prendendo, diciamo così, le distanze dall'appello, diciamo, quello ufficiale, perché non eravamo d'accordo, ecco, sulle posizioni di quell'appello. Certamente. Quindi siamo scese in maniera autonoma, diciamo, come contenuti, abbiamo portato questo appello dello sciopero delle donne, che è stato, almeno con quelle donne con cui abbiamo avuto modo di parlare, accolto positivamente. E quindi a Palermo cercheremo di, non solo a Palermo ma anche in quelle realtà dove siamo presenti, abbiamo intenzione, diciamo, di costruire dei momenti ben precisi e significativi, insomma, per quella giornata. Avete già, ricordandoci che anche in altre realtà questo appello venga accolto e che nel tempo si possa costruire anche una rete, diciamo, un coordinamento, ecco, tra le varie realtà in lotta delle donne. Senti, Donatella, ma state già pensando a una serie di iniziative concrete da fare per l'8 marzo? Sì, quindi sì, diciamo che per esempio le compagne, le lavoratrici, donne disoccupate che aderiscono all'MFPR, per esempio, di Taranto, Sono in contatto con le operaie della Fiat Sata Melfi. Hanno avuto appunto dei contatti diretti anche in occasione dello sciopero che c'è stato il 28 gennaio eccetera, e si sta definendo per esempio in quella zona di fare un presidio lì davanti la fabbrica alla Fiat, per il giorno dell'8 marzo, naturalmente partendo da questo appello dello sciopero delle donne. E questo secondo me è un'iniziativa molto significativa, perché poi le operaie in questo momento, per quello che vivono anche dentro la fabbrica, rappresentano in maniera significativa quella che è veramente il doppio attacco alle donne, non solo dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista del genere. Noi a Palermo stiamo lavorando in particolar modo con le donne precarie che lavorano in vari settori, ma non solo donne precarie, anche le studentesse e donne che sono casalinghe, quindi voglio dire disoccupate casalinghe, quindi che non sono legate strettamente a un lavoro, e pensiamo appunto di scendere l'8 marzo, in questo momento pensiamo di fare un corteo, comunque di fare qualcosa di significativo, ma faremo un'assemblea il 3 marzo dove chiameremo tutte, inviteremo tutte per definire esattamente il momento di lotta. Va bene, allora passiamo anche nelle altre città dove siamo presenti, Milano, all'Aquila, però per esempio abbiamo avuto anche dei contatti con le operaie della OMSA. Infatti, che scendono in piazza il 25, e fra un po' ci metteremo in collegamento telefonico con una di loro. Speriamo che insomma quel giorno in diverse forme si possa comunque scendere e portare questo messaggio, che ripeto, non si esaurisce in un giorno. Ma per noi lo sciopero delle donne è anche una parola d'ordine, non vuole essere solo l'8 marzo, è una parola d'ordine che proprio per lanciare una campagna che significa lottare ogni giorno appunto sotto ogni aspetto di quelli che sono gli attacchi che purtroppo riceviamo. E senz'altro è così, sicuramente. Sì, sicuramente è così. Donatella, noi ti ringraziamo e magari ci possiamo sentire prossimamente appunto. Per raccontarci meglio sapere le iniziative, esattamente le varie iniziative nelle varie città. Però ripeto, chiudo velocemente dicendo che il messaggio che vogliamo mandare anche con questa campagna, con questa parola d'ordine, è che si possa formare una rete fra tutte le realtà di donne che lottano sotto ogni aspetto, quindi non solo dal punto di vista lavorativo, e metterci in collegamento perché questa cosa si possa estendere. Va bene, allora noi ti ringraziamo e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.